24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:32 minuti, buongiorno cari ascoltatori, buon fine settimana. Già in anticipo è venerdì, ultima puntata della settimana di 24 mattino, l'ultimo sondaggio della settimana. Come abbiamo sentito nel GR, parliamo di questa decisione della Cassazione sui clandestini. La Cassazione ha deciso che gli irregolari immigrati devono essere espulsi anche se hanno figli che vanno regolarmente a scuola, perché la tutela delle frontiere prevale sulle esigenze della tutela del diritto allo studio dell'infanzia. Prima la sicurezza dei bambini. La traduco così brutalmente. Siete d'accordo con questa sentenza della Cassazione? Dovete votare su radio24.it nell'home page bianco o nero, ci trovate. Per ora vi state dividendo sostanzialmente 50-50, un po' di prevalenza per i sì, ma di poco. Siete d'accordo? Ne parleremo alle 8:30, questo troviamo anche sui giornali, dove però l'apertura è come di consueto dedicata alla politica. Andiamo a vederli allora i giornali. Con le stampanti e multifunzione a colori Xerox a inchiostro solido è più semplice. Vai su xerox.it/promo. Vi presenta... In primo piano. Le aperture, a dire la verità, sono diversificate per il Corriere della Sera. Ultimo sondaggio, 4 regioni in bilico. Oggi è l'ultimo giorno per i sondaggi, perché c'è la par condicio, appunto, anche per i giornali vale qualcosa. E dunque c'è un sondaggio sulle regioni. Berlusconi evoca il complotto, questa è l'apertura di Repubblica. Poi Libero e Il Giornale, diciamo, prendono un po' in giro la manifestazione dell'opposizione di domani. Ci riprovano con l'ammucchiata, questo è Libero, su uno sfondo viola, il colore del popolo viola. Il Giornale, arruolano anche i fantasmi, domani la sinistra in piazza. Per il Fatto Quotidiano, così Berlusconi ordinò, chiudete anno zero. È un'inchiesta, diciamo, in esclusiva che ha Il Fatto e che poi vedremo su una indagine in corso alla procura di Trani. Il Sole 24 Ore, scontro Unione Europea-Stati Uniti su hedge e derivati. Merkel, Sarkozy, Juncker, Papandreou propongono nuovi limiti per i CDS. Poi La Stampa anche apre a livello economico, la BCE subito tagli alle spese. Per l'Unità, la risalita, oggi sciopero generale del sindacato, la risalita in realtà è una discesa impicchiata secondo l'Unità. Questi alcuni titoli dei giornali, mentre io partirei proprio dal Corriere, che propone, a cura di Renato Mannheimer, questo sondaggio sulle regioni. 3 regioni sicure per il centrodestra, Lombardia, Veneto e Calabria, 6 per il centrosinistra, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Puglia e Basilicata, 4 incerte, Piemonte, Liguria, Lazio e Campania. Le trovate a pagina 2 e 3, i sondaggi fatti per il Corriere della Sera da Renato Mannheimer. Le 4 regioni incerte al momento sarebbero appunto Piemonte, Liguria, Lazio e Campania. In queste regioni, secondo questo sondaggio, in Piemonte sarebbe in testa di poco, di 0,9 percentuali, Mercedes Bresso, quindi la candidata del centrosinistra, 48,9 contro il 48 di Cota. Per quel che riguarda invece la Campania, sarebbe in testa al centrodestra 48,5 Caldoro contro il 46,8 di Vincenzo De Luca. Per quel che riguarda la Liguria, invece, la Liguria vedrebbe in testa il Burlando, il centrosinistra 50,6 contro 48,3, mentre il Lazio vedrebbe in testa la Polverini 48,5 verso Emma Bonino 48,2. Questi i sondaggi, poi li trovate a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. È l'ultimo giorno dei sondaggi, anche se questo mi dà subito lo spunto per andare alla Stampa. Tentazione scheda bianca, perché questo è un punto che mette anche in evidenza Mannheimer. Il 17% secondo il sondaggio del Corriere della Sera ha cambiato idea dopo il caos delle liste, e infine peserà l'astensione prevista in aumento. Perché vado allora sulla Stampa? tentazione scheda bianca. Pagina 7 della Stampa è un sondaggio che ha fatto la Italia Futura, vale a dire il think tank fondato da Luca Di Montezemolo, un sondaggio SVG, secondo il quale l'astensionismo potrebbe davvero avere un ruolo importante in questo caso. La politica italiana, ha scritto il direttore di Italia Futura Andrea Romano, somiglia ogni giorno di più a un cinepanettone, perché il format è sempre uguale, gli attori gli stessi, le battute anche, ma il pubblico continua a comprare il biglietto. E scrive Italia Futura, sarebbe l'astensionismo una decisione consapevole e legittima, nella quale si potrebbe perfino riconoscere, vista la qualità della crisi che abbiamo davanti, un sovrappiù di dignità civile. Dunque, dignità civile per chi si astiene al voto, secondo Italia Futuro. Il clima, d'altronde, è quello lì. Contro di noi una porcheria, ha detto Berlusconi, che ha detto sono forte, batterei anche Carnera, primo Carnera a braccio di ferro. Dall'altra parte ci sono le piazze che cominciano a prepararsi, domani quella dell'opposizione, settimana prossima quella della maggioranza, e Bersani in un'intervista a Repubblica dice: è finita l'epoca degli steccati, ora in piazza politica e società, e difenderemo Napolitano. Intanto, dice Bersani, Berlusconi, vedo un galoppare di iniziative che puntano alla deformazione delle regole. Berlusconi non è in grado di trasmettere un'idea di futuro, è troppo forte per essere finito e un po' troppo finito per sentirsi davvero forte. E poi sulla piazza di domani, sulla imprevedibilità di Di Pietro e le possibili accuse, attacchi a Napolitano, dice Bersani, non considero l'ipotesi che Di Pietro possa attaccare il capo dello Stato. Sono sicuro delle mie idee, anche se lui è imprevedibile. Alla manifestazione verrà sottolineata la piena e assoluta responsabilità del governo e di Berlusconi per il provvedimento delle liste. Alla domanda di Goffredo De Marchis, ma se arrivasse un attacco al Colle, lei romperebbe con Di Pietro? Ripeto, non faccio ipotesi di questo genere. Insisto, la manifestazione non parlerà solo del decreto, ma di lavoro, crisi e libera informazione. Intanto Di Pietro ha chiamato alle armi democratiche, pressioni forti sul Quirinale, così segnala il Corriere della Sera. La vicenda delle elezioni, siccome appunto è tutto un gran cancan di polemiche, di toni molto accesi, c'è il ministro Bondi che ha detto attenzione, si rischiano nuovi attentati, il clima è da rischio di nuovi attentati a Berlusconi. Voglio un po' sdrammatizzare con due interviste a due protagonisti, i due protagonisti della movimentata conferenza stampa, La Russa e Carlo Magno, questo provocatore che così è andato a fare delle domande in maniera molto molto anche aggressiva verbalmente, ma è stato anche respinto in maniera certamente non molto ortodossa dal ministro La Russa. Allora, La Russa parla ad Antonello Caporale su Repubblica: non era uno scappellotto, l'ho preso per il bavero della giacca, anzi ha anticipato la scorta molto più arcigna e potente per evitargli ulteriori guai. Lui gli ha dato il picchiatore fascista. Io, se mi querela, lo denuncio per calunnia. 4 anni si fa dentro. Lui mi ha detto ti querelo e io lo denuncio. E poi La Russa dice: io sono come sono, credo che si accorgano gli elettori che non fingo. Voglio far finire questa moda della provocazione. Quello tira il Duomo, quell'altro è pazzo, quegli altri aspettano il premier per fischiarlo e basta. Però ai miei tempi nessuno si azzardava a venire a disturbare, sapeva che non se ne sarebbe uscito vivo. Ride La Russa. Comunque dice: io scappellotti non ne ho dati a quel giovanotto. Ma si chiamava Carlo Magno, come fa la canzone di De André? Chiede La Russa. Quello mi sa che non era Carlo, era Riccardo, era Carlo Martello, ministro. Almeno andava a puttane, ma questo qui, come dire, lo avete visto? Però ricordo, chiede Caporale, che in una manifestazione la nuca di un giovane di AN si adagiò sul palmo della sua mano. Quello fu un vero scappellotto, ma a fin di bene, dice La Russa. Dall'altra parte, Carlo Magno è il cognome, il nome adesso mi sfugge anche, forse Rocco. Carlo Magno parla al Riformista e dice: lo querelo, e come se lo querelo. Eccolo qui, Rocco Carlo Magno, sono stato male tutta la notte, ho chiamato il 118, mi ha dato 2 gomitate con il gomito sinistro violentissime, ho vomitato 3 volte, Ho avuto dei recenti calcoli e ho timore che una gomitata a rene destro di La Russa mi abbia spostato un pezzetto di calcolo rimasto. Per questo ho vomitato. Non ho mai paura, temevo la mia reazione perché noi uomini siamo calienti e reagiamo se provocati. Ma io sono una persona equilibrata. Ora promuoveremo un'azione collettiva di migliaia e migliaia di cittadini perché La Russa e Berlusconi non hanno offeso me, ma la Costituzione. E il Premier però non ha mosso un dito. Lui ha fatto di peggio, mi ha insultato e ha detto cose sgradevoli. Questo ha detto Carlo Magno, che poi parla di complotti, i brogli del 2006, tira in ballo il figlio di Pisanu che avrebbe cercato in una società di fare dei brogli elettorali. Vabbè, e queste insomma le due interviste del giorno sulla questione elettorale, La Russa e Carlo Magno, in questo fantomatico duello rusticano. L'ultima segnalazione per quel che riguarda le elezioni, ma anche perché ragazzi io la tratto così, ci sono tanti commenti tutti i giorni, ma forse è meglio trattarla insomma con interviste così che un po' sdrammatizzano, magari ci fanno anche un po' sorridere. Chi non sorride sono gli esclusi, il dramma degli esclusi per l'esclusione al momento delle liste del PDL nella provincia di Roma. Ecco il Corriere della Sera, il dramma degli esclusi, gente che ha speso già centinaia di migliaia di euro, gente che ha fatto tappezzare Roma di manifesti, gente che aveva prenotato ristoranti, un grande ristorante sull'Appia per esempio, Rinaldo all'Acquedotto, hanno annullato tutti. Ieri Celori, lunedì Di Paolo Antonio che aveva prenotato per 1000 persone, anche per martedì hanno disdetto, erano 500 con cena a base di pesce, tutti del PDL. 50 euro se il menù è con pesce, basta fare i calcoli, poi aggiungete i manifesti, i comitati elettorali, loro gli esclusi dicono di aver speso chi 50.000 euro, chi invece dice niente. La verità è che il pasticcio delle liste è costato una fortuna a persone che ora dicono c'è chi subirà dei drammi nella vita perché aveva puntato tutto su queste elezioni. Donato Robilotto addirittura dice non escludo di chiedere un risarcimento per danni economici ed immagine. Sì, ma a chi? Scusi, ai responsabili, così, ai responsabili, che non si sa bene chi siano. Allora, domani tra l'altro il Consiglio di Stato forse, ricordava il Sole 24 Ore qualche giorno fa, dirà la parola fine sui ricorsi, chi lo sa se ci sarà una parola fine. C'è tanto ancora delle inchieste sia sul G8 con l'interrogatorio di Verdini, Denis Verdini, che il Corriere della Sera mette a pagina 15. Sulla nomina di De Santis ne parlai con almeno 10 deputati, spiega ancora qual è un po' il sistema, semplicemente di segnalazioni, di amicizia, eccetera. Così come trovate molto su Di Girolamo, che come abbiamo sentito accusato, i vertici di Fasto e Bespark sapevano, questo leggo sulla Stampa, ho preso per le truffe 1.700.000 euro, sono stati creati crediti fittizi per 365 milioni di euro, insomma trovate molto sull'interrogatorio di Di Girolamo. Trovate molto anche, da qui ripartiamo dopo il traffico, su quello che è il tema del nostro sondaggio, vale a dire la Cassazione ha detto via i clandestini anche se i figli frequentano la scuola. La tutela delle frontiere deve prevalere sulla tutela del diritto all'infanzia di andare a scuola. In primo piano. Come detto, la Cassazione in questa sentenza nei confronti di un albanese irregolare di Busto Arsizio ha detto che aveva chiesto sospendetemi l'espulsione perché io ho una moglie e 2 figli qui che vanno a scuola, come faccio se mi espellete? Insomma, il diritto di una crescita anche psicofisica dei miei bambini insieme ai propri genitori è minato. La Cassazione ha detto no, prevale la tutela della sicurezza, la tutela delle frontiere. La Cassazione via i clandestini anche se i figli frequentano la scuola. Trovate ovunque insomma la notizia di cronaca, i commenti e interviste. Per esempio il Corriere mette Monsignor Mogavero, il vescovo, presidente del Consiglio per gli affari giuridici della CEI, molto critico, i giudici riducono tutto a una questione di polizia, mentre il ministro Calderoli della Lega, finalmente una sentenza di Cassazione che ristabilisce lo stato di diritto. Si dividono anche i commentatori come Gad Lerner su Repubblica, molto duro, sarà difficile per i bambini comprendere l'accusa secondo cui i genitori li avrebbero messi al mondo non per amore ma per strumentalizzarli, riducendo le loro persone a pretesto escogitato per commettere l'illecito di vivere dove non gli spetta. Una vergognosa sentenza della prima sezione civile della Cassazione che contraddice giudizi precedenti di segno opposto ispirati a un ovvio criterio di umanità, peraltro contemplato dalla legge. Mentre di opposto tenore Maria Giovanna Maglie su Libero: che strazio, il politically correct, non pago di dominare nel mondo politico intellettuale cosiddetto da sinistra, ci ha invaso anche nella zona del pensiero di centrodestra. Pensate un po' che ha fatto di scandaloso la Cassazione, ha approvato e vidimato quello che un governo aveva deciso per tutelare i cittadini italiani. Ha deciso che vale anche in Italia un concetto che in quasi tutto il resto del mondo è principio sacro, l'esigenza di garantire la tutela delle frontiere. Un figlio non assicura più il permesso di soggiorno, questo per Maria Giovanna Maglie. Ne parleremo alle 8.30, voi che pensate? Su radio24.it dovete votare, per ora è aumentato nel frattempo la percentuale di chi è a favore, il 58% di voi dice la Cassazione ha deciso bene. E ripeto, continuate a votare su radio24.it, poi ne parleremo dopo. Segnalo su pagina 3 del Sole 24 Ore: Berlusconi è l'ora della risalita, si è parlato, ha parlato di crisi, ieri si è mossa anche la Banca del Sud, diciamo un primo passo, uno strumento che non sarà un carrozzone, dice il ministro dell'economia Tremonti. Ve lo segnalo perché di questo parlerà Oscar Giannino, nel senso parlerà della situazione economica, parlerà della crisi alle ore 9. C'è molto ancora sulla vicenda degli abusi sessuali e della Chiesa. La Chiesa e il celibato non c'entra con gli abusi. Questo il Cardinal Maradiaga sul Corriere della Sera, anche se la notizia, le due notizie sono da Repubblica su questo tema, che voglio citare, sono da Repubblica e da Il Giornale. Repubblica, abolire il celibato in 50 anni. È un articolo di Marco Ansaldo, secondo il quale Repubblica dice abbiamo saputo questa notizia, la Chiesa sta pensando per un domani che si misurerà in decenni, forse tra 50 anni, di poter eventualmente abolire la regola del celibato per i propri esponenti. È un percorso, uno studio segretissimo che sarebbe stato affidato ad alcuni alti rappresentanti della Congregazione per il Clero guidata da Monsignor Claudio Hummes, che è un vescovo e un cardinale brasiliano. Naturalmente il passo del Vaticano su questo punto centrale è prudente. Le fonti parlano addirittura della possibilità di un cambiamento in proposito appunto da qui a 50 anni. Concetti che la Chiesa avrebbe enorme difficoltà pubblica ad ammettere come affrontabili, ma il germe sembra gettato e le prime indagini esplorative sembrano avviate. Abolire il celibato in 50 anni, il progetto segreto del Vaticano. Questo su Repubblica, mentre Il Giornale pubblica in prima pagina un editoriale su questo tema del direttore Vittorio Felte, un editoriale che farà certamente discutere. Il titolo è questo: castrazione chimica per i preti pedofili. Fa una lunga analisi Feltri, dice intanto la premessa: se i preti cattolici, contravvenendo alle sante disposizioni, fanno l'amore con donne consenzienti, sono affari loro e della Chiesa. Altra storia è la pedofilia, e non c'entra con le fisiologiche pulsioni che tormentano ogni cristiano osservante o assorbito dalle cose terrene. L'argomento è imbarazzante, ma se un adulto molesta o violenta un minore, commette reato e va condannato. Mentre, sostanzialmente, dice Feltri, i preti pedofili, contrariamente ai ragionieri della stessa Risma, l'hanno quasi sempre fatta franca, sentendosi così incentivati a coltivare la loro malattia e non a curarla. Chiedere scusa non è sufficiente. Il Vaticano ha chiesto scusa per i preti pedofili negli Stati Uniti, in Austria, in Irlanda, in Olanda, ha chiesto scusa o chiederà scusa per i preti pedofili in Germania. Adesso ci aspettiamo uno sforzo, un elenco di reprobi da processare e da incarcerare. Se poi tra questi ci fosse qualche volontario, perché non sottoporlo a castrazione chimica? Meglio un cardinale castrato che all'inferno. Questa la dura editoriale molto provocatorio di Vittorio Feltri, con cui chiudo la rassegna stampa. Ricordatevi di votare il sondaggio, la decisione della Cassazione, clandestini via anche se hanno bambini a scuola. Alle 8 e 17 minuti, ben ritrovati in diretta con 24 Mattino, il momento dell'economia. Con le stampanti e multifunzioni a colori Xerox e inchiostro solido è più semplice. Vai su xerox.it/promo. Vi presenta... Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno. Buon Alessandro. Fine settimana in anticipo. Mi stai già smammando. Ti sto già mandando via per qualche giorno. Già. E allora? Eccoci qui, parliamo di auto un'altra volta. Bene. Tanto ognuno di noi ne ha una e ognuno di noi anche ha vario paio, titolo. Anche un paio, 3, 4, cioè. Ma c'è qualcuno che l'ha comprata qualche mese fa perché voleva beneficiare, voleva approfittare degli incentivi fiscali che sono stati in vigore fino alla fine di dicembre, e naturalmente il patto era che una volta prenotata l'auto questa potesse essere immatricolata fino a marzo. Allora, qual è la questione che ci è stata sollevata e segnalata da molti ascoltatori? È che ci sono delle auto che non stanno arrivando, concessionari in difficoltà, e questo sta provocando che cosa? Una grande preoccupazione fra molte persone, perché rischiano di perdere gli incentivi. Come ci comportiamo in questo frangente? Quanto è diffuso questo fenomeno? Quali modelli di auto sta riguardando? Stamattina abbiamo fatto scendere dal letto presto il direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie di essere tornato a Soldi e Dintorni. Peraltro, prima di entrare nel vivo del nostro argomento, volevo ricordare che ogni domenica alle 16.30 c'è il programma Strade Motori, che è condotto dal nostro Massimo Di Scienza, e anche nella puntata di domenica prossima sarà ospite il direttore Tedeschini. Gli argomenti che saranno trattati sono tanti: guida sicura, anche vendere e comprare un'auto usata su internet, e poi anche tutto ciò che è emerso dal Salone di Ginevra dell'auto. Allora, direttore, lo dicevamo, in molti avranno deciso di acquistare l'auto negli ultimi mesi, anzi l'anno scorso, perché gli incentivi sono entrati a regime a partire da febbraio dello scorso anno. Chi ha deciso di fare l'acquisto negli ultimi mesi dell'anno però rischia di perdere l'incentivo, perché i concessionari, non è molto frequente, ma sta capitando, non stanno consegnando. Avete fatto un monitoraggio? Quanto è diffuso il fenomeno? Fortunatamente non molto, però effettivamente alcuni casi ci sono, succede sempre. Uno appunto si affretta a comprare la macchina magari a fine dicembre perché giustamente vuole fruire degli incentivi che peraltro nel 2009 erano molto importanti. Io ricordo che per una Panda metano, se si rottamava l'auto vecchia, si arrivava a 5.000 euro, quindi stiamo parlando praticamente di più del 30% del prezzo dell'automobile. E quindi dicevo, uno si è affrettato, ovviamente il concessionario ha detto ma certo che te la consegno entro marzo, perché appunto la legge diceva che le macchine dovevano essere acquistate entro dicembre e immatricolate entro marzo, ma poi magari qualche modello non arriva, qualche versione particolare, quindi ci si trova nei pasticci, perché su quello appunto la normativa è molto chiara: se le macchine sono immatricolate dopo il 31 marzo l'incentivo non c'è più e quindi si rischia di perdere parecchi soldi. E infatti i paletti sono rigidissimi. Detto questo, molto spesso quello che capita è che il concessionario, non dico che si disinteressi totalmente della questione, ma comunque lui dice non è colpa mia, non ci posso fare niente, quindi non si attiva granché per soddisfare il proprio cliente. Beh, dipende un pochettino da concessionario a concessionario, nel senso che anche quella è una professione peraltro oggi un pochettino scusate, in difficoltà, perché il momento non è affatto facile. Però dicevo, dipende un pochettino da concessionario a concessionario. Però è vero che se la macchina dalla fabbrica non arriva, poi questo povero concessionario ci può far poco se non provare magari a vedere se ha qualche altro esemplare invece che gli è arrivato in salone, che può soddisfare il appunto quello che è stato l'ordine del cliente. Il problema lì è anche di andare a capire che cosa è stato scritto nel contratto al momento dell'acquisto, perché devo dire che molto spesso le case automobilistiche, sapendo che poi può succedere qualche incidente di percorso, si cautelano dicendo nelle condizioni contrattuali che in realtà i tempi di consegna che magari sono stati indicati nel foglio d'ordine non sono, diciamo, imperativi, ma soltanto indicativi di un periodo di massima in cui, e quindi dal punto di vista poi, diciamo, legale, se uno decidesse di impugnare il contratto dicendo ma come, io ho perso 3, 4, 5 mila euro, certo, e quindi non sono più interessato a questo tipo di automobile, beh, allora lì effettivamente non sempre si è in grado di far valere i propri diritti. Insomma, poi anche qua dipende un pochettino dalla d'utilità del concessionario, che magari per tenersi cliente eccetera è disposto ad andargli conti, a trovare un tipo di soluzione. No, il problema grosso secondo me è questo, chiaramente poi cerco un po' di interpretare anche quello che possono percepire in questo momento i nostri ascoltatori all'ascolto, è che sicuramente è chiaro che un concessionario può far firmare un contratto piuttosto elastico in relazione anche alla possibilità che ci possano essere dei ritardi da parte della casa automobilistica che deve consegnare l'auto, ma in virtù di un sistema di incentivi come quello che c'era l'anno scorso, e qui bisognava invece essere forse un po' più rigidi anche nella previsione dei tempi di consegna. Sì, su questo non c'è dubbio. Devo dire che ha aiutato nel fatto di poter consegnare le automobili il fatto che poi in realtà nei primi 2-3 mesi di quest'anno, diciamo 2 mesi e mezzo, arrivando ormai praticamente a metà marzo, di auto nuove se ne sono vendute molto poche e quindi, diciamo, fortunatamente o sfortunatamente dal punto di vista delle case costruttrici, non c'è un grande arretrato appunto di ordini da smaltire. Infatti, quindi io credo che la maggior parte in realtà degli ordini verranno smaltiti regolarmente entro il 31 marzo. Certo che chi ci resta in mezzo resta in una situazione molto spiacevole, proprio perché, come dicevo prima, non è che ci siano delle scappatoie di tipo giuridico, perché lì appunto la legge è molto chiara e lì non si può eludere. È molto difficile pensare che il concessionario si faccia carico appunto dell'incentivo, perché si trattava in realtà di cifre molto ma molto importanti, quindi escludo che lo faccia. No, anche perché ricordiamo magari che oltre all'incentivo molte case automobilistiche hanno praticato anche degli sconti in casa propria, magari il concessionario ci ha messo qualcosa del suo per mantenere vivo il settore che ha vissuto una crisi pesantissima negli ultimi 2 anni, già anche i concessionari ci hanno messo del loro, per cui rimetterci anche... Sì, appunto, gli sconti ovviamente restano, ci mancherebbe altro. Il problema è relativo all'incentivo statale che, come dicevo, andava da un minimo di 1.500 euro con semplice rottamazione di un'auto con più di 10 anni di vita, con una macchina nuova, ecologica e che consuma poco, fino ai 5.000 euro massimi quando si sommava alla rottamazione con gli incentivi, per esempio, sul metano, sulle macchine ibride, che erano molto ma molto importanti, quindi 5.000 euro di sconto su un'automobile, capite bene che quando parliamo magari di un prezzo del nuovo che arriva a 15.000, beh, insomma, è veramente uno sconto molto importante. Oltretutto, come dicevi giustamente, c'erano poi anche gli sconti della casa del concessionario che facevano salire ulteriormente questo tipo di vantaggio che si aveva, no? E quindi è ovvio che chi resta lì magari non aveva neanche così tanta fretta di cambiare l'auto e l'ha fatta dicendo, beh, scadono gli incentivi, approfittiamone, poi si trova in una situazione effettivamente molto sgradevole. Allora, io questo episodio, esatto, come dire, che è strettamente personale, non lo volevo raccontare, ma tanto per far capire invece che siamo partiti anche nel trattare questo argomento da casi molto pratici che conosciamo, perché capitano anche a persone vicine a noi. Questa situazione sta capitando ad una collega che lavora praticamente alla scrivania accanto alla mia, Silvia, una segretaria di redazione, e a mia sorella. Praticamente hanno fatto lo stesso ragionamento, nel senso che non avevano fretta di cambiare l'auto, però in virtù della mole dell'incentivo, che era piuttosto interessante, hanno deciso di fare questo investimento. E adesso quest'auto, non so neanche se la posso citare, comunque, insomma, il cubo nuovo è il fiorino Fiat, l'ultimo modello, non sta arrivando. Non per parlare di questa casa, ma magari, Mauro, quali altri modelli sono in ritardo? È possibile avere così un quadro anche di questo, oppure non avete monitorato? Ma a noi non risultano in realtà dei modelli che abbiano dei problemi particolari. A noi risultava in realtà qualche versione particolare, quindi era un pochettino trasversale, un po', diciamo, a tutto il mercato, insomma. E quindi ripeto, non è un problema enorme, anche se effettivamente io credo che il problema più grosso ce l'abbiano proprio coloro che si sono affrettati nell'ultimo giorno dell'anno, decidendo in extremis, proprio perché, ripeto, non avevano bisogno di cambiare la macchina, ma hanno detto dai, scadono questi incentivi così buoni e quindi andiamoci a comprare l'auto. Perché se noi andiamo a vedere l'andamento del mercato in novembre-dicembre, devo dire che c'è stato un andamento assolutamente anomalo, perché ci fu una specie di schizofrenico degli ordini, ma c'è stato un boom degli ordini in un periodo economico che noi sappiamo non particolarmente favorevole. C'è stato un boom degli ordini che sta facendo sì che il mercato dell'auto poi a gennaio e febbraio, ovviamente per smaltire gli ordini acquisiti negli ultimi 2 mesi dell'anno, abbia un boom addirittura con aumenti del 20-30%, assolutamente incredibile e sconcertante per chi lo guarda da fuori, a cui poi seguirà dopo nei prossimi mesi, a partire soprattutto da aprile, un calo altrettanto sconcertante, perché andremo invece a -25-30%, e quindi c'è stata una specie di corsa alla cuccagna che poi rischia di lasciare qualcuno con le dita bruciate, in questo caso devo dire senza assolutamente sua colpa, perché, infatti, ripeto, lì il problema è totalmente a carico soprattutto delle case costruttrici, prima ancora che dei concessionari. Allora, vedremo un po' cosa succederà entro il 31 marzo, se queste persone saranno soddisfatte. Devo dire, Mauro, che queste persone che ho citato hanno fatto l'ordine ad ottobre, per cui non sono state neanche quelle dell'ultima ancora ora. Volevo solo segnalare un'ultima cosa, che alcune associazioni dei consumatori, per così tutelare al massimo chi si è trovato, chi si sta trovando in questa situazione, suggeriscono anche una messa in mora nei confronti del concessionario. È una procedura per intimare ufficialmente la controparte che non rispetta il contratto un determinato adempimento, e quindi, in sostanza, magari per qualcuno che volesse anche tutelarsi ulteriormente con questa procedura, può dare un'occhiata ai siti delle associazioni dei consumatori, dove ci sono appunto indicate proprio le procedure, come scrivere la raccomandata e quant'altro. Mauro, può essere utile o meno, magari in 3 secondi? Sì, può essere utile sicuramente. Assolutamente, io volevo soltanto segnalare che ho avuto personalmente lo stesso caso per un divano e ho visto che sono migliaia le persone in Italia che aspettavano, e quindi c'è questa situazione veramente sconcertante di crisi economica generale, con le industrie chiuse, le fabbriche con gli operai in cassa integrazione, ma poi chi compra un oggetto si trova ad aspettare dei mesi e non capisce perché. Evidentemente non c'è una sufficiente elasticità nella produzione, perché poi probabilmente si sono chiuse anche troppo queste fabbriche e quindi anche chi compra poi spesso si trova mal partito e non riesce ad avere il bene che ha ordinato. Bene fatto ricordare anche divani, perché sta partendo anche un'altra grande partita di incentivi, 300 milioni di euro per tra l'altro motocicli, oltre che per elettrodomestici, cucine componibili e quant'altro. Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote, buona giornata. Grazie presto. A voi, buona giornata. Alessandro. Alle 12 casse di previdenza dei professionisti, un tema che riguarda molti lavoratori. Facciamo il punto della situazione sul loro stato, dei loro bilanci. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: sul caos delle liste alle regionali, Berlusconi parla di complotto contro di noi, dice una grande porcheria. Bersani, replica, è un disco rotto e domani l'opposizione va in piazza. Oggi lo sciopero della CGIL, previsti disagi nei trasporti, ma anche possibili disagi negli uffici pubblici. L'Italia è il paese delle donne disoccupate. In Europa i maschi senza lavoro hanno superato le femmine, mentre da noi ancora no. Le donne disoccupate sono al 9,8%, gli uomini al 7,7%, lo dice l'Eurostat, l'Istituto Europeo di Statistica. Infine, per il calcio, bene la Juventus nell'andata degli ottavi di Europa League, 3-1 agli inglesi del Fulham. Stasera invece torna il campionato, l'anticipo della 28ª giornata prevede Catania-Inter. E allora le 8:34 minuti, parliamo di questa decisione della Cassazione che ha suscitato polemiche sull'immigrazione e sulla clandestinità. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Cosa ha deciso la Cassazione? Che gli immigrati irregolari possono essere espulsi anche se hanno figli minorenni che vanno a scuola. Perché? Perché la tutela delle frontiere, sostanzialmente la sicurezza, prevale sul diritto allo studio dei bambini. È una decisione, tra l'altro, che va contro a una decisione analoga, in un caso analogo precedente della Cassazione. C'è chi dice finalmente si è ristabilito lo stato di diritto, se uno è irregolare deve andare via. C'è chi dice ma come, ma qui ci va di mezzo un bambino, come si fa a separare un genitore da un bambino minore che va a scuola? La decisione va contro il diritto della tutela dell'infanzia, il diritto della tutela dei minori e il diritto allo studio. Che ne pensate? Decisione giusta secondo voi? C'è da dire che per ora dite di sì. Su Radio24.it il 70% di voi dice la decisione è giusta. Come dire, se uno è irregolare, è irregolare. Ne vogliamo parlare. Saluto e ritrovo con piacere Luigi Amicone, che è direttore di Tempi. Buongiorno direttore, ben ritrovato. Buongiorno. Così come voglio salutare Liliana Ockmin, che è nella CISL, coordinatrice nazionale delle donne. Buongiorno. Buongiorno. E tra l'altro buongiorno. Ha una storia personale che è stata raccontata varie volte, vale a dire peruviana di origine, è arrivata a 20 anni da irregolare, poi regolarizzata. Ci ascolta anche, lo saluto, l'avvocato Luca Bauccio, che è esperto di diritto penale internazionale. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. Amicone, direttore, la decisione è giusta? Qualcuno dice così finalmente non si potranno utilizzare i bambini. La stessa Cassazione lo dice in un passo della sentenza, attenzione, perché altrimenti si rischierebbe di strumentalizzare l'infanzia per trovare un modo per rimanere qui da irregolari. Beh, Alessandro, l'hai detto anche tu, mi pare una decisione assolutamente di buon senso. No, io in genere non esprimo giudizi, io. No, li date voi. La ragione nel senso nel riportare la motivazione della Cassazione, cioè è evidente che bisogna smettere di stressare le buone intenzioni, i buoni sentimenti senza proporzionarli alla realtà. È evidente che ammettere il principio che un irregolare, siccome ha un figlio iscritto nelle scuole, possa rimanere, vuol dire in pratica non solo ammettere, ma dare un segnale in generale a informare le popolazioni fuori dall'Italia che tendono a emigrare, che in Italia se trovi il modo di iscrivere un bambino a scuola puoi di fatto regolarizzarti usando appunto di un minorenne, di un bambino della scolarizzazione. Cioè il messaggio sbagliato sarebbe: venite qua irregolari, fate un figlio, poi lo scrivete a scuola, se riuscite nell'irregolarità a rimanere, e poi questo con questo appiglio potreste insomma. Questo è il messaggio pericoloso. Non so, Liliana Ockmin, che ne pensa insomma di questa sentenza? E credo che a questo punto non sia prevalso e necessario chiamare al buon senso, perché al di là della tutela e dell'interesse supremo del minore, qua viene a mancare anche un elemento sostanziale di diritto dell'unità familiare. È pur vero che per la governance un fenomeno come l'immigrazione, che ha tantissimi lati e sfaccettature e difficoltà, la regolarità deve essere uno degli elementi fondanti per la governance del fenomeno, ciò non vuol dire che non si rispetti i diritti dell'unità familiare e soprattutto l'interesse supremo del minore, perché a questo punto veramente siamo arrivati a livelli di non tener conto sull'integrità non solo morale ma anche affettiva del minore, perché quando un bambino gli si allontana di una scuola dove è già inserito, poi va valutato sicuramente caso per caso, per alcuni principi vanno sicuramente salvaguardati. Probabilmente se ci fosse l'autority della tutela dell'infanzia potrebbe venire fuori anche la richiesta di interventi in casi appunto specifici. Non si può prendere, come dire, e fare dell'erba un fascio, neanche pensare che tutti strumentalizzano questo ampliamento dell'articolo 31, che dava la possibilità per l'appunto di poter estendere la regolarità ai propri genitori nel momento in cui i bambini avevano appunto gravi rischi di disadattamento oppure rischi della propria salute, l'integrità anche sociale. Ma tra l'altro questi rischi, cioè del voglio dire, il ricorrente che è un cittadino albanese di Gallarate, sostanzialmente ha detto: c'è il rischio di un insano sviluppo psicofisico di un bambino, immaginate per una separazione. Tra l'altro la moglie di questo albanese invece ha il permesso regolare di soggiorno, hanno due bambini, quindi lui dovrebbe prendere e tornarsene in Albania e ci sarebbe una famiglia separata, insomma. E la Cassazione ha detto: per carità, questo principio dello sviluppo psicofisico è assolutamente da tutelare, ci sono anche delle leggi che lo tutelano, le convenzioni di Ginevra per la tutela dell'infanzia, ma c'è un bene superiore, un interesse superiore, quello della difesa delle frontiere, quello appunto di combattere la clandestinità. Avvocato Bauccio, so che lei ha una posizione molto critica su questa sentenza, perché? Ma perché a me sembra una sentenza che abbia rinunciato a leggere i fatti come pure dovere della Cassazione di qualunque giudice da un punto di vista giuridico e soprattutto costituzionale, e invece è una sentenza che si affida a luoghi comuni, al cosiddetto senso comune e persino al processo alle intenzioni. Sostituisce un ragionamento costituzionale per comprendere se veramente per la nostra Carta Costituzionale è più importante garantire il rispetto dei diritti inviolabili, come dice l'articolo 2 della Costituzione, l'unità familiare, l'articolo 29, il diritto e il dovere dei genitori a educare i figli, l'articolo 30 della Costituzione, e si affida invece ad una incredibile, inaccettabile, culturalmente veramente degradante ragionamento sul fatto che un genitore clandestino in questo modo strumentalizzerebbe il minore. Cioè si guarda la realtà dal punto di vista del clandestino e non dal punto di vista del soggetto più debole, che è un minore, cioè un giovane, un bambino, un infante che dovrebbe ritrovarsi magari senza un padre o senza una madre solo perché quel genitore è irregolare. Attenzione, si diventa irregolari, si è irregolari non soltanto quando si attraversa la frontiera da irregolari, ma lo si diventa anche quando si perde un lavoro in Italia e non se ne riconquista un altro. E quindi anche in questo caso non è vero che c'è in gioco la sacralità delle frontiere, concetto molto strano che nella Costituzione è difficile trovare, sì. Comunque è molto difficile trovarlo con quella preminenza e quella importanza che hanno invece gli altri diritti che in questo caso vengono strumentalizzati. Io sono rimasto interdetto a leggere anche le dichiarazioni del Ministro della Pubblica Istruzione, che parla più come un Ministro dell'Interno o della Difesa, piuttosto che come un Ministro che dovrebbe avere a cuore invece la formazione avvocato sì. C'è la par condicio, lei cos'è? Ma non lo nomini neanche il ministro dell'istruzione, cioè possiamo dire c'è un ministro all'istruzione, non ho fatto il nome, ma non possiamo dire neanche le iniziali. Non ho guardato bene. Vabbè, ma comunque Amicone, che cos'è questo buonismo, quello del, come per esempio Maria Giovanna Maglia oggi dice, ma basta questo buonismo, insomma, oppure non so, il sindaco di credo Novara in un'intervista alla stampa dice, vabbè, che problema c'è? Sono irregolari, vadano via con tutta la famiglia, insomma, prendano anche i bambini, nessuno li vuole separare, ma insomma, prendano e vadano. Amicone. Certo, poi ci sono casi particolari, però anche questo appello alla Costituzione, capite? La Costituzione, anche l'articolo 31 dice che si dovrebbero sostenere le famiglie numerose in Italia, e quanto è applicato questo diritto? Cioè, i diritti certamente espressi come principio, come prospettiva, poi si applicano, non si applicano, cioè capite che la realtà è molto diversa in tanti aspetti rispetto ai nostri auspici. Noi vorremmo che tutto il mondo si prendesse per mano, che facessimo un grande giro tondo, ma purtroppo il mondo è fatto di limiti essenziali, coessenziali anche a questi diritti. Ma io dico che principio, che messaggio diamo? I popoli che si affacciano sul Mediterraneo sono mediamente popoli in cui ciascuna donna ha dai 4 agli 8 figli in media. Benissimo, in linea di principio noi dovremmo aprire le scuole, perché la stragrande maggioranza di questi bambini non hanno la possibilità, non sono scolarizzati come nelle scuole italiane. In linea di principio noi, che siamo un paese più avanzato, democratico, che rispetta i diritti umani, dovremmo aprire le frontiere a tutti questi bambini. È impossibile, perché è evidente, no? È un paradosso, però la Corte di Cassazione dice esattamente questo. Cioè dice che le frontiere non è che sono sacre perché sono state benedette, sono sacre nel senso che c'è un territorio, c'è uno spazio, c'è una dimensione, l'emigrazione deve in qualche modo essere razionalizzata, controllata, verificata. Non si può in nessun modo accettare il principio che in nome di un bambino, 2 milioni, se ne saranno tanti di più di quelli che avrebbero bisogno di avere scuola, educazione, eccetera, si faccia saltare un equilibrio che nella realtà ha bisogno di essere controllato e di essere misurato per quello che è. Certo, noi auspicheremmo la possibilità di poter regolarizzare tutti c'è un limite. Allora devo andare al traffico, poi molti ci dicono ma com'è possibile iscrivere il figlio da un irregolare nelle scuole? Su questo magari Liana Hochman ci dirà qualcosa, ma è possibile in realtà? C'è anche tutta una controversia per esempio sulle scuole materne. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, siccome molti ci chiedono ma com'è possibile già che il figlio di un irregolare si trovi iscritto in una scuola, Liliana Hochman, vogliamo chiarire, su questo c'è anche una diatriba che molti comuni hanno aperto con il Ministero dell'Interno sulla questione che fare con i figli degli irregolari per le scuole materne, perché mi pare, ma forse mi sbaglio, che per le scuole primarie, secondarie, la legge non prevede una denuncia, cioè vanno iscritti tutti, anche figli di irregolari, senza controllare, è così o mi sbaglio, Hochman? No, è chiaro, perché la garanzia del diritto allo studio va appunto conciliata anche con una normativa che ovviamente è in vigore e che prevede anche maggiori sanzioni, però era esclusa la segnalazione o l'esclusione dei bambini irregolari, quindi la legge va rispettata. Però io credo che a monte ci sia un discorso, chiaramente una società civile che si rispetti deve anche garantire quelle fasce più deboli, in questo caso le persone più deboli sono proprio i bambini che dovrebbero essere tutelati. Ciò non vuol dire che ci sia un buonismo dietro, c'è una constatazione occasione a una presa di responsabilità rispetto a chi ha bisogno di tutele, rispetto a chi dovrebbe, l'unità familiare, uno degli altri diritti a cui è il minore, proprio nell'interesse di una serena crescita e sviluppo, ovviamente dovrebbe essere garantita l'unità familiare. Allora io ripeto, penso che le leggi sono fatte delle persone e le leggi portano anche momenti, congiunture politiche del tempo, però che ci sia una presa d'atto da parte di un organo come la Corte Suprema, voglio dire, che possa valutare sino in fondo qual è l'interesse supremo, io credo che non si possa paragonare la necessità di dare sicurezza o di far rispettare appunto i principi delle irregolarità. No, deve essere comunque messo nelle condizioni, e credo che l'unità familiare, la famiglia, sia il fulcro appunto del maggiore deterrente di tutte le patologie sociali. Allora, se questo principio è com'è, non vedo perché si debba fare un distinguo tra famiglie italiane e famiglie immigrate. Io credo che questo non significa venir meno una responsabilità, venir meno è venir meno alle fondamenta di una società civile. È un punto, è un punto interessante questo. Vediamo i nostri ascoltatori che ne pensano. Siate come al solito brevi ma efficaci. Giuliano da Padova, buongiorno, che ne pensa di questa sentenza? Sì, buongiorno a lei e buongiorno anche a tutti gli altri. Sì. Io sono assolutamente favorevole con la sentenza della Corte di Cassazione, perché sancisce un diritto di legalità, un principio di legalità. Se c'è appunto una legge che stabilisce che il clandestino, come dice la parola stessa, perché tutti quanti abbiamo studiato l'italiano a scuola, sappiamo benissimo che il termine clandestino sottintende chiaramente una cosa che è contraria alla legge, e quindi è chiaro che chi è clandestino deve essere allontanato. Però Giuliano, la Corte di Cassazione dice è anche un diritto riconosciuto da tanti trattati internazionali, il diritto alla tutela dell'infanzia, alla tutela dei minori a studiare. Quindi sono due diritti che confliggono, bisogna decidere quale dei due deve prevalere. Dal mio punto di vista non si confligge proprio nulla, perché il clandestino se ne ritorna a casa sua e il minore rimane in Italia a studiare. E mi scusi, se ha cinque anni che fa? Scusi, dove sta? Se lo prende lei a casa? So. Se ha 5 anni rimane con la madre, che non sarà irregolare, rimarrà, oppure se ha 5 anni ritorna nel paese di origine del padre. Quindi assolutamente semplice. Lei dice semplice, però capisce che così, diciamo, uno dice la colpa, se è una colpa, l'irregolarità del padre si trasferisce sul figlio, che anche lui è obbligato. Ma voglio dire, questo stiamo discutendo per questo. Stefano da Genova, che ne dice? Stefano. Ma io, sentendo quello che dice il predecessore, mi stupisco, ecco, sinceramente, come la gente ragioni. Legga l'articolo oggi di Gramellini, che c'è, i bambini vengono prima di tutto. Buongiorno di Gramellini. Ma la realtà, come dice Gramellini, è fatta di carne, la carne di bambini, i quali, voglio dire, chiaramente io non penso che siano tanti clandestini che qua sfruttano il figlio per poter restare in Italia, mi sembra che sarà un caso estremamente limitato. Poi volevo anche dire un'altra cosa. Per quanto rispetto il rispetto delle regole che dice questa persona precedente, io ho sentito oggi anche un esponente, facciamo il par condicio della Lega, finalmente le regole. Le regole si rispettino tutti, anche nel, non posso portare un esempio, nel caso delle liste, la destra le regole le ha sapevo dove voleva quando andare comodo, dalle regole, sapevo dove voleva andare Stefano da Genova, le regole non contano quando contano solo per interessi propri, contano in generale. Allora, siccome cerchiamo di essere perlomeno obiettivi, va bene. Bene, il concetto l'ha espresso. Allora vorrei, prima di tornare all'avvocato Bauccio, Liliana Hochmin, visto che io ho ricordato brevemente la sua esperienza personale, le posso chiedere se quando lei arrivò in Italia 20 anni da irregolare e ora la situazione percepita sulla pelle, se lei la ricorda di quando aveva 20 anni e quella che percepisce oggi sugli irregolari che magari incontrerà, è cambiata il clima proprio? Chiaramente adesso, a parte le dimensioni, 20 anni fa sicuramente il numero dei regolari era minore rispetto a una presenza oggi molto massiccia, ma io credo che il problema, al di là di quello che è cambiato, non è che è cambiato in meglio, abbiamo attualmente una legge che come giustamente veniva detto all'inizio, chi penalizza anche chi perde lavoro. Con la situazione attuale, ovviamente, con i lavori che mancano, con i lavori che si perdono, gli immigrati diventano anche una parte molto fragile, le stabilità, e quindi il mettere radice con la propria famiglia diventa più instabile. Sì. Se si potrebbe pensare che un fenomeno come l'immigrazione è un fenomeno con cui l'Italia dovrà sempre più fare i conti, credo che bisogna appunto assumersi le responsabilità fino in fondo e tracciare le basi, delle fondamenta di un processo di integrazione duro, veritiero. In 20 anni non l'ho visto, non si è accennato, ma questo non va al di là degli schieramenti di destra e sinistra, e credo che oggi ci sia alla esigenza e la necessità, perché l'integrazione non è un lusso per l'Italia, è una necessità, la mancanza del ricambio generazionale, il bisogno del lavoro e la presenza di loro sul territorio italiano faccia fare i conti con una capacità di una politica attenta, non è nel senso benevolo del regolarizzare tutto, sia chiaro, del regolamentare, certo tenendo conto dei fondamenti di una società civile come quella italiana, che caratterizza l'unità familiare, i valori che vanno al di là di una legislazione. Allora, io credo che su questo è il punto su cui devono puntare tutti gli schieramenti politici, sia appunto i minori. I minori sono le basi e le fondamenta di una politica di integrazione. Allora, vale sui minori, regolari e gli irregolari. Io ho 10 secondi, però, avvocato Bauccio, dicono: io ho l'irregolare, vengo qui, lo iscrivo a scuola e nessuno più mi muove dall'Italia. Questo sarebbe lo stratagemma. Sì, ma appunto stiamo facendo la sceneggiatura di un film negativo che vogliamo applicare alla vita degli immigrati come se fossero persone diverse da noi, invece sono esseri umani che sono mossi da sentimenti, da istinti di vita, di sopravvivenza e di socialità che sono uguali ai nostri. Non si può parlare di esseri umani un tanto al chilo. Sono esseri umani, non sono clandestini, nessuna legge parla di clandestinità, sono soltanto irregolari. Si è irregolari quando non si ha un lavoro. La domanda è: risponde a un criterio di sicurezza vietare a un padre o ad una madre di educare il proprio figlio in Italia solo perché non ha un lavoro? Su questa, c'è veramente un'equivalenza fra queste due cose? Su questa oppure il contrario? Su questa domanda però mi fermo, che sennò rischio di sforare. Ringrazio lei, come tutti quelli intervenuti, Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. La percentuale a favore della sentenza è aumentata, siamo all'83%. Bianco o nero è tradio24.it. Ci sentiamo lunedì.